Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, beh, buono certamente, anzi è dolcissimo quello dei novaresi, è un po' meno dolce, anzi è amarissimo quello degli interisti, alle prese con la crisi più profonda da molti anni a questa parte, non 55, e cioè quanti ne ha attesi il Novara per tornare a vincere una partita in Serie A, e che partita, ma in ogni caso tanti. Scrive Massimo da Verbania in un'alluvione di messaggi sms e mail che arrivano ininterrottamente da ieri notte. Questo invece è recentissimo. Massimo scrive: il debutto in A in casa del Novara dopo 50 anni, la sconfitta dell'Inter con l'esonero dell'allenatore, beh, sembra una puntata della vostra rubrica sembra ieri. Non ne sono sicuro, Massimo, perché non so se una cosa del genere era mai accaduta neanche nella preistoria. Che succede ora? Beh, c'è intanto una frase di Moratti che dice: se saranno Baresi e Bernazzani a sostituire Gasperini? Non credo, ha detto, e quindi questo chiude la possibilità della soluzione interna che insomma era echeggiata in mattinata subito dopo l'esonero di Gasperini. Di Gasperini c'è già anche l'addio, testimoniato da queste poche parole. I risultati sono quelli che determinano tutto. Molto, sono molto dispiaciuto, però si era instaurato un ottimo rapporto, peccato averlo dovuto interrompere. C'era molto rammarico da parte di tutti. Proviamo a vederla adesso dall'altra parte della barricata, anche per celebrare questo ritorno in A del Novara dopo 55 anni. E in attesa dei vostri interventi, che immagino abbastanza immediati, all'800 24 00 24. Sentiamo dalla parte di Rigoni, per esempio, protagonista per tutta la partita, ma in particolare nel finale di questo 3-1. Sì, sono molto felice. Abbiamo chiuso qui in una serata storica e abbiamo ricominciato con un'altra serata storica. Abbiamo fatto una vittoria importante, abbiamo fatto una partita perfetta, abbiamo avuto la squadra campione del mondo in carica, siamo felicissimi. Credo che stasera il Novara ha fatto una partita pressoché perfetta, l'avevamo preparata bene. Il mister ci aveva dato le indicazioni, le abbiamo eseguite, credo, nella maniera perfetta, e questo è il risultato. A differenza di quello che è accaduto sull'altro versante, ammesso e non concesso, io non lo concedo che le indicazioni dell'allenatore, parlo di quello dell'Inter, fossero quelle ideali per una partita come quella di ieri sera. Sentiamo l'allenatore del Novara, Tesser. È una bella festa perché era il ritorno del Novara in Serie A, è la prima vittoria in campionato e sono punti importanti. Farlo con una grande squadra dà prestigio, ma i punti sono sempre uguali e valgono doppio forse con le squadre, diciamo, di meno blasone. Però siamo chiaramente molto contenti per la vittoria, ma soprattutto per la prestazione che abbiamo fatto. Solo così dovevamo e potevamo cercare di fare risultato, e l'abbiamo interpretata bene. Questo è lo spirito di quella squadra che in questi 2 anni ha fatto cose importanti, e questa sera ha dimostrato il perché, anche in Serie A, no? Che se si gioca con questo spirito possiamo giocarcela con tutti. Sì, sempre sperando di trovare di fronte una squadra come l'Inter di ieri, perché indipendentemente dal colore delle maglie c'era poco, no? Dentro quelle maglie, diciamo pure tra le più prestigiose della storia del calcio italiano, e in particolare nel calcio degli ultimi anni, ieri sera dentro c'era davvero poco, molto poco, anche dal punto di vista del temperamento, non solo della corsa, non solo della disposizione in campo, non solo degli atteggiamenti da tenere sul campo, perché io credo che aver visto Lucio, per dirne una, no? Girovagare eternamente per il campo in attesa di decidere contro quale avversario avrebbe perso la palla, lasciandogliela sul posto per poi beccare uno dei 55 contropiede, beh, insomma, non è stato un grande spettacolo. Allora, subito i vostri interventi, dicevo. Franco da Como, buongiorno. Buongiorno, dottore, un po' che non ci sentiamo. La chiamo sempre per la mia Juve. Mi permetto di parlare dell'Inter in quanto ho tanti amici e soprattutto, in particolar modo, un amico caro interista. In questi tanti anni ha vissuto tante esperienze. Io ieri, rientrando da Torino, ho sentito la cronaca e mi sono venute in mente delle cose che volevo rendere partecipe lei e i In sintesi, Franco, perché abbiamo preso già un po' di circonvallazione, c'è tanta gente che vuole intervenire. Tante volte gli esoneri di Cooper, Simoni, l'addio di Ronaldo, abbiamo vissuto Benitez, il mister Mourinho che se ne va, Oriali, anche l'ultimo allenatore. Io mi chiedo, quanto sia stato poi tutto il sistema calcio a penalizzare l'Inter in tutti questi anni, quanto Calciopoli possa essere servita, ma alla fine la gestione è sempre questa e si ripetono gli eventi, tutto qui. Boh, insomma, questa mi sembra una lettura un po' particolare, non... Ci sono i cicli positivi, i cicli negativi, poi certo l'Inter una certa propensione a complicarsi la vita l'ha sempre avuta, fa parte del suo DNA e adesso è tornata a quei tempi, ma insomma, la parentesi che lei ha citato in mezzo c'entra secondo me fino ad un certo punto. L'Inter non ha capito per tempo che questa squadra era... si stava avviando verso il tramonto e non è intervenuta per tempo, appunto adesso se la ritrova praticamente al capolinea, perlomeno nei suoi elementi cardine. Nel frattempo i giovani non sono cresciuti abbastanza per supportare questi vecchi, rischiano di bruciare verdi, come succede sempre in queste situazioni negative, e questa è una cosa che sta accadendo. Vede perché le dicevo, lei ha preso un po' di circonvallazione, perché siamo già all'ora del traffico, quindi i vostri interventi sono graditi, ma ripeto, devono essere più sintetici. Dicevo che è il momento dei vostri interventi all'800 24 00 24. Emiliano ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io vorrei solo dire una cosa, che l'acquisizione di Gasperini come allenatore per me è stata sbagliata fin dall'inizio, per le qualità del tecnico, perché chiedevano un tecnico vincente e invece Gasperini per me non è mai stato un tecnico vincente, ha avuto una squadra, due squadre che facevano un bel gioco ma non ha mai vinto niente. Ah, ecco, certo, cosa che invece allenando il Genoa e il Crotone dovrebbe essere di una semplicità elementare, bella questa. Carino, la possibilità di prendere un allenatore come Delio Rossi, che oltre comunque sia un ottimo allenatore. Scusi Emiliano, giusto per l'espressione tecnico vincente è una di quelle che mi danno l'orticaria, e chi mi conosce da qualche anno lo sa, ma lei mi elenca l'albo d'oro di Delio Rossi per cortesia? Ma ha vinto una Coppa Italia con una squadra non grandissima, la Lazio, e ha portato una squadra non di prima fascia a una finale di Coppa Italia. Sì, che però non nella sala dei trofei non entra. D'accordo Emiliano, grazie. Io credo invece, riciclo una splendida battuta di Roberto Beccantini di una decina di giorni fa, quando ha detto che la scelta di Giampiero Gasperini era figlia dell'emergenza rifiuti. Ora, detta così sembra molto volgare, in realtà la battuta è raffinata. Perché? Perché l'Inter era in piena emergenza da rifiuti, nel senso che aveva detto di no Bielsa, ha detto di no Capello, ha detto di no un altro che in questo momento non ricordo, si è scoperto poi che aveva detto di no anche Del Bosque quest'estate. Dopodiché sono arrivati i Gasperini. Ora, quando sono arrivati Gasperini hanno commesso un errore grave, ma non perché Gasperini non sia per il mio un bravo allenatore, ma perché Gasperini comportava un cambio di rotta, un cambio di ricerca di uomini e di pedine e di giocatori con caratteristiche diverse rispetto a quelli che c'erano, che non si faceva in tempo a fare in un mercato che tra l'altro l'Inter aveva affrontato in situazioni, diciamo, di emergenza fair play, così a grandi linee. Fabrizio Ancona, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono un tifoso dell'Inter e secondo me i 5 anni di vittorie sono una parentesi che si deve inserire in un periodo di tempo di circa 10 anni che ha visto l'Inter e il suo presidente collezionare grandi errori. Io vorrei contrapporre la figura di Moratti a quella di De Laurentiis. Dico la verità, De Laurentiis non mi è molto simpatico, però in 4 anni con la programmazione è riuscito a portare la squadra dalla C alla Champions League, ha un bilancio inattivo e ha valorizzato molti giovani, mentre l'Inter ha sempre mancato di programmazione, spesso ha improvvisato, ha avuto bilanci quasi sempre in rosso, e quindi secondo me la gestione Moratti valutata nel suo complesso, vittorie, bilancio, tutto il resto è deficitario. Questo è il mio punto di vista e lo dico è un punto di vista interessante, le dirò Fabrizio, è molto meno paradossale di quello che a prima vista potrebbe sembrare. Io in buona parte lo condivido. Sono curioso, scrive Michele da Padova, di vedere chi sarà il folle che andrà a gestire una squadra autogestita dai giocatori ormai da 2 anni. Marco, provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno a tutti voi. Niente, io dico solo una cosa. Passa Inter, già il titolo dell'inno dice tutto. Comunque, lasciamo perdere. Gasperini, secondo il mio punto di vista, da interista. Cioè, era come lo stracchino che si compra al supermercato, che si sa che scade il giorno dopo, dice ma tanto lo mangio lo stesso e poi lo si butta via. Cioè, mancava il progetto di base. Lei ha detto bene. Cioè, prendere Gasperini era la scelta finale perché non c'era altro di meglio. Allora io dico, a questo punto, Moratti, possiamo dire noi interisti con orgoglio mai stati in B? O comincia a avere dei seri dubbi, dei seri problemi? Perché qui abbiamo veramente una squadra, secondo il mio punto di vista, che si gestisce da sola. Lì solamente una personalità forte come Mourinho. So che lei non sta a genio, però a questo punto qui io credo che cambiano il modo di vedere, di pensare anche i giocatori, perché sennò qua ragazzi siamo allo sbando. Sì, però insomma... Se arriva un allenatore realista che tiene conto delle caratteristiche di questi giocatori, che li assembla, ma questa non è una, sì, è una critica a Gasperini, sia ben chiaro, però è una critica a Gasperini, come dire, attuale, contingente. Se invece torniamo indietro, come molti di voi hanno già fatto, a cercare la genesi del rapporto Gasperini-Inter, io chi abbia sbagliato non lo so esattamente, ma la mia idea è che semmai abbia sbagliato l'Inter e non Gasperini. Se parliamo invece di queste ultime esperienze agghiaccianti da un punto di vista tecnico e soprattutto tattico dell'Inter, io credo che, non sento fare il nome di Carlo Ancelotti sinceramente, no? tra tutti questi papabili, che è, secondo me, oggi sul mercato degli allenatori liberi in Italia e nel mondo, è nettamente il nome più autorevole e sarebbe il candidato ideale per qualsiasi squadra. Non lo sento fare perché probabilmente, anzi certamente Ancelotti ha già fatto sapere di non essere disponibile. Credo, salvo colpi di scena che nel calcio ci possono sempre stare, ma io sono certo che anche un Inter così decotta come quella di ieri sera, con un grande allenatore come Carletto che si piazza in spogliatoio, rimette una linea a 4 dietro, una quindicina di metri davanti, rimette un'altra linea a 4 possibilmente un po' blindata, che dice a Lussio la prima volta che passi metà campo sono, non so, 10.000 euro di multa ogni volta che pesti la riga di metà campo, davanti ne giocano due di fianco, più probabilmente uno davanti e uno dietro, che possono essere quelli che volete voi, Forlan e Pazzini piuttosto che Snyder e Pazzini piuttosto che Snyder e Forlan. Milito magari, come dire, nel frattempo passa in retrovia, passa nella riserva, boh, insomma, io credo che quella squadra lì la sua dignitosa figura la possa ancora fare, levandosi magari dalla testa sogni di gloria, ma una sua decorosa figura la possa fare. Come Roberto Milano, buongiorno. Buongiorno, parlerò da non grande esperto di calcio, peraltro tifoso milanista. Dunque, io quest'anno ho visto un paio di partite, mi è piaciuto molto il nuovo allenatore del Palermo, come mi è piaciuto molto il nuovo allenatore del Novara, adesso al di là della sconfitta dell'Inter, perché mi sembra che questi giovani allenatori, o meno noti allenatori che si presentano in Serie A, stanno dando un senso proprio un pochino diverso a quello che poi è il match, la competizione, l'agonismo, la tattica e l'atletica della squadra. Per quanto riguarda l'Inter, volevo solo dire una cosa velocissima. Ha ragione lei quando dice che un grande allenatore può comunque rimettere in piedi, però rimette in piedi una squadra che secondo me va totalmente riassemblata, perché è veramente decotta. Quindi voglio dire, credo che gli interisti umilmente debbano ammettere che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di... Certo, Roberto, grazie. Hanno fatto un figurone mangia et esser, e certamente ne faranno altri. Nel frattempo sappiamo contro chi l'hanno fatti e contro quale povera edizione di Inter l'hanno fatto entrambi. Il Novara ancora più agevolato del Palermo, perché fino a Palermo l'Inter ancora quella sera la partita se l'era giocata in maniera troppo avventurosa, ma giocata, mentre quella di ieri veramente è stata qualcosa a cui si stentava a credere guardando le immagini in TV. Io stentavo a credere anche che si possa giocare su un campo così irregolare, intendiamoci. Irregolare per tutti, perfettamente regolare dal punto di vista dell'agibilità, anzi persino troppo regolare, però io continuo a dire che dal mio punto di vista retrogrado quello non è calcio, su un campo sintetico, tra l'altro mi pare di aver capito di non nuovissima generazione, io su quel campo sintetico non sono convinto che si possa giocare che si possa giocare un grande calcio. È chiaro che il Novara ci è più abituato, ma ho visto anche comunque dei rimbalzi strani, dei passaggi fuori misura, abnormi, no? Soprattutto sulle linee laterali, anche rasoterra, anche brevi, da parte loro, cioè da parte di chi ci è abituato. Io continuo a non capire perché, se si è sempre giocato a pallone sull'erba vera, si debba giocare invece oggi sull'erba sintetica. Enea ha chiamato la provincia di Vicenza, buongiorno. Maestro, buongiorno. Maestro sarà lei, dica. No, maestro è lei, perché tra l'altro è anche un galantuomo, quindi io l'ho sempre chiamato maestro a lei. Vabbè. Io spero che mia moglie non mi ascolta perché è interista. Io credo che dopo Mourinho l'Inter ha fatto già, diciamo, quello che doveva fare, e la squadra è, secondo me, da rivoluzionare, secondo il mio modesto parere, in quanto il signor Moratti, che frequenta l'università della memoria, perché la memoria che dimentica, ha dimenticato che dopo un ciclo, dopo che si arriva al culmine, bisogna rifare qualcosa. Lei mi ha anticipato, sarebbe opportuno che il signor Moratti, pur chiamandosi internazionale, facesse qualche cosa di più, in modo tale che cominciassi di nuovo dalle basi. La ringrazio infinitamente. Grazie a lei, Enea. Il problema è che non si può ricominciare dalla base, ricominciare dall'inizio a metà settembre o al 21 di settembre. Ah, tra l'altro oggi in autunno non si può, non è consentito, non è come a bocce, che se le due squadre tirano le prime due bocce, ovviamente tra amici, male, si dice vabbè, ricominciamo. No, adesso il campionato è partito e bisogna fare con quei giocatori lì almeno fino a gennaio, e penso che sia questo il serio problema nell'Inter. Vediamo se ci sta ancora Luciano da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Allora, diciamo che in qualche cosa lei mi ha già risposto. Comunque la questione è questa qui, sempre per l'Inter. Ha sempre sofferto le squadre che corrono molto, e quindi ultimamente, anche se decotta, l'abbiamo visto, insomma, questo. Secondo me è anche una questione di uomini fuori ruolo, perché sì, certo. Ecco, Gasperini per seguire il suo calcio ha dovuto necessariamente adattare alcuni uomini a ruoli che non erano confacenti, tipo Snyder a metà, sulla linea di metà campo. Certo, Luciano, dobbiamo andare cosa? C'è altro? Questo volevo dire, insomma, certo. Uomini fuori ruolo, secondo me. La ringrazio, Luciano. Chiudiamo questa prima parte di A Tempo di Sport, poi la riprenderemo più avanti, perché è ovvio che il disastro dell'Inter è il fatto del giorno. Ma tra le tante mail arrivate, una è davvero curiosa. Dice: scusi, ma il campo di Novara è il medesimo che ha il Manchester United, coltivato esattamente con gli stessi tipi di semi e gestito in maniera assolutamente analoga. Ora io mi sentirei di escludere. No. Adesso sono disposto ad andare a fare un sopralluogo, ma insomma sono abbastanza certo che non solo l'erba, ma l'erba con la E maiuscola dell'Old Trafford non meriti una mail di questo genere, ma sono convinto anche, come dice il mio amico Franco Piantanida, che il giardiniere di Old Trafford guadagni almeno quanto Wayne Rooney per il culto che hanno da quelle parti. Chiusa per ora questa parentesi sui terreni di gioco, do il bentornato a Paolo Casarin. Buongiorno Paolo. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Senti, mi ha molto colpito l'analisi che tu hai fatto lunedì nella rubrica che hai sul Corriere della Sera, Fischio Finale. Io cito un paio di passaggi e poi ne parliamo, soprattutto l'inizio. Dal campionato di Serie A sembrano scomparsi gli arbitri e gli assistenti. Commenti in diretta e cronache dei giornali riservano spazi sempre più ridotti alle loro prestazioni. Si potrebbe liquidare l'argomento affermando che la ragione di tanto silenzio stia nel fatto che finora i migliori fischietti e i più bravi giudici del fuorigioco hanno sbagliato pochissimo. E in effetti gli arbitri hanno fatto un buon lavoro, ma hanno pure sbagliato alcune decisioni. Ti domandi subito dopo, siamo di fronte a una rivoluzione improvvisa oppure la ridotta rivisitazione arbitrale per mezzo della moviola ha tolto agli osservatori validi argomenti di critica? Ecco, parliamone, perché mi sembra uno spunto molto ma molto interessante. Sì, io ho naturalmente nell'arco di tanti anni una delle mie convinzioni su questa su questa figura, insomma, adesso senza esagerare, che sta in mezzo a un campo di calcio e, sì, e che può porsi in tante maniere, no? Da, da protagonista eccessivo, da, da anche da incompetente, ce ne sono molti, no? A tutti i livelli, sì, e, oppure da, da, da figura minima, no? O in via di riduzione, diciamo. Ecco, scartando le prime due, quella che in questo momento cerco di guardare è se per caso c'è una deriva in questo senso, cioè quella che l'arbitro riduce gli interventi quando c'è da decidere, se può prende una via di mezzo, che in genere vuol dire non intervenire. Ecco, se sta autoriducendo la propria attività, probabilmente, se fosse in questo caso, perché pensa che meno interviene e meno suscita problemi e magari aumentano consensi, potrebbe anche essere così. E, ecco, dal mio punto di vista, andando in questa maniera, scompare l'arbitro. Sì, certo, sarà una figura che fischia poco, ma sostanzialmente si riduce il ruolo, che è importantissimo, di arbitro di una partita di calcio. E si riduce, dici tu, in un certo senso per autorinuncia, e cioè è una tesi molto interessante, che può essere vista anche sul filo del paradosso, per il mio, e cioè si è sempre detto che il miglior arbitro è quello che non dà troppo nell'occhio, no? Che comunque non si guarda bene da diventare protagonista. Ma se il prezzo per vediamo se ho capito bene, se il prezzo per arrivare a questo è l'astensione dalle decisioni più imbarazzanti o comunque più impegnative da prendere, beh, non è una buona strada questa, ho capito? Ecco, hai proprio capito bene. E in questo senso ribadisco, dopo una lunga esperienza sul campo da arbitro, ma soprattutto devo dire dopo una altrettanto lunga esperienza da designatore, come si può dire, designatore, certo, o comunque da uno che a cui piace guardare l'arbitraggio, studiarlo, vederlo, ecco, io credo che non c'è, c'è il modo di essere, non essere protagonisti nel senso negativo, che è quello di essere arbitri, cioè l'arbitro, che vuol dire una figura competente, che non eccede nell'esibizione, eccetera, non è una figura che va fuori dalle linee, deve esserci, però temo che invece che fermarsi su questa posizione, partendo anche da quella di eccessivo, si va a finire su quella minima, no? Sì. Perché per esperienza ti direi, Gigi, che quando avevo a che fare con gli arbitri, e non solo italiani, no, a loro non gli dovevi mai dire ma lasciate perdere, no, una qualsiasi cosa, un fallo, no, ma io dicevo cercate di vedere. Sì. No, perché vedere vuol dire fischiare o non fischiare, ma non rinunciate all'osservazione. Certo. La tesi che io trovo anche lì vagamente paradossale è questa, cioè tutto questo potrebbe nascere, ti domandi, no, è un'ipotesi tua, se per caso questo improvviso oscuramento del problema arbitrale non dipenda anche dal fatto, dalla sparizione della moviola, cioè la moviola è sparita storicamente dallo scorso anno dagli studi Rai per una scelta editoriale molto, molto precisa. E lentamente questa scelta, si è, anziché scatenare la concorrenza, paradossalmente si è propagata anche al resto delle televisioni, diciamo pure di queste. Ora, quello che, e qui dico il mio punto di vista che sostengo da sempre, quello che è stata una conquista dal punto di vista della progressiva, perlomeno della civiltà dei rapporti, del mancato inquinamento ambientale, eccetera, eccetera, rischia però per la categoria arbitrale di diventare uno stimolo in meno. Questo? È proprio così. Cioè l'arbitro è una figura che non può vivere senza critica. È bella, cioè, questa. No, certo. No, è vero, è giusto. Ti voglio dire, ai miei tempi, e sto tornando indietro di parecchi decenni, alla mattina col cuore in gola andavi a vedere che voto ti dava il giornalista. Certo. No, e se era buono ti dava una grande gioia, diciamo, no? Ti aumentava quello che si dice l'autostima, eccetera, eccetera. No? Ora, la Moviola, che ricordiamoci, ha risolto molte volte casi intricati a favore dell'arbitro. Sì. Perché se facciamo 100 analisi della Moviola, secondo me l'80% dimostrava che l'arbitro aveva fatto bene, non il contrario. Mm-hmm. No. Ecco, poi dopo magari ci sono modi e modi di fare la Moviola, sì. Ma diciamo uno strumento abbastanza corretto, neutrale, eccetera, ma questo anche ai tempi di Carlo Sassi. Sì, certo. Molte volte lui dava ragione, no? Sì, ecco, sì. Ecco, e questa era una forma certificata, se vuoi, dalla tecnologia, di dire: guardate, non ci sono tante storie, l'arbitro ha fatto bene, no? Ecco, e con questo l'arbitro riceveva, se aveva fatto bene, così, soddisfazione; se aveva fatto male e aveva ricevuto la critica in una maniera corretta, mia esperienza diretta, non gli faceva che bene. La peggior cosa è quella di pensare che tanto nessuno può dire nulla, perché ti porta automaticamente alla deriva del minimalismo. Questa è una riflessione davvero che secondo me è particolarmente coraggiosa, proprio perché è anticonformista, proprio perché è fatta da un arbitro, prima designatore poi, e comunque da un grande esponente del mondo arbitrale. Paolo, diciamo che in questo paio di minuti che ci restano, io vorrei provare a mettere l'accento su una cosa che mi ha colpito negativamente della classe arbitrale in queste prime giornate. Cioè, detto che effettivamente gli arbitri si stanno comportando abbastanza bene, detto che è più facile di prima comportarsi bene perché non c'è più la Moviola, i falli violenti, perché secondo te Lussio non viene sanzionato in maniera più dura? Perché Montolivo può entrare in quella maniera senza vedersi il cartellino rosso? Succede anche all'estero oppure è un buonismo nostro questo? Ma adesso, dopo 20-21 partite giocate finora, direi che siamo nella fase di raccogliere dei dati, no? Perché se per questo sono stati concessi rigori come quello di ieri, ma non sabato, che probabilmente gli assomigliava molto, sì, in Inter-Roma, sì, e non sono dati rigori come quello a Palermo contro Migliaccio, che doveva determinare l'espulsione. Anche l'espulsione, certo. No? Voglio dire, cioè, cose clamorose, eh? Sì. Cose che anche in Inghilterra, soprattutto quella di Migliaccio, avrebbe portato a proteste forti, anche laddove. Ecco, quindi siamo, non so se questa forma di bontà, no? Sì. Di bontà, di comodo, che ha portato a qualche fallo fuori oltre il tollerabile, non faccia parte dello stesso movimento. Mm-hmm. Ed è quello che mi ha insospettito, che mi fa pensare, no? Cioè, voglio dire, allora ti cito uno che ho conosciuto bene per 7 anni. Ecco, tu devi sapere che Collina, no, era un arbitro, è stato un arbitro di rilievo, veramente, e aveva proprio una volontà, alle volte perfino eccessiva, di andare a vedere. No? Sì. Cioè, lui era uno che fischiava, certo. Fischiava molto di più di questi. Sì. No? Ora, adesso, non è una crescita quella di non fischiare. Se i giocatori sono corretti, allora vuol dire che si gioca più correttamente e si fischia di meno. Benissimo. Siccome non vedo grandi trasformazioni nei giocatori, fischiare di meno vuol dire semplicemente fare della bontà per aumentare il consenso. Bontà per aumentare il consenso e magari non disturbare il manovratore. E non disturbare. Ma il manovratore. Molto bene. Paolo, allora mi sembra che per oggi insomma, possa bastare, nel senso che sia pure flautato questo intervento, proprio così leggero e impalpabile non è stato. Noi magari ci diamo appuntamento per un altro di questo genere a breve termine, che ne dici? Va bene, vediamo che altri dati. Vediamo. Io ti seguo il lunedì per iscritto e da lì ricavo e fissiamo appuntamenti. Va bene. Grazie davvero. Buon lavoro e saluti a tutti. chi ha nostalgia della moviola? Domanda Claudio da Verona. Io no, di sicuro, Claudio, glielo posso giurare. Guardi che noi tifosi stiamo bene senza moviola, scrive Raffaele. E sono anch'io della vostra parte. Mi incuriosiva però molto questo intervento di Casalin, perché è vero, non avevo fatto caso a questo particolare della moviola, scrive Loris da Pordenone, vorrebbe dire che stiamo diventando grandi no, però insomma qualche passetto lo stiamo facendo. Mentre un altro ascoltatore, che invece adesso non riesco a ritrovare su questo display perché oggi avete scritto in troppi, non in tanti, no, ma questo non è un rimprovero, sia ben chiaro, anzi, un altro ascoltatore diceva, ritorniamo alla moviola, ma facciamola ad esclusivo uso arbitrale. Ecco, questa è la chiave e questo era il senso della provocazione di Casalin, che mi è sembrato molto interessante. Comprare, questa è carina, Andrea Pinerolo scrive, comprare una radio per ascoltare a tempo di sport 20 euro, guardare una partita alla tribuna 50 euro, non sentire più le critiche arbitrarie di Pistocchi non ha prezzo, okay? Questa non è male. Dunque, è in corso un colloquio con Ranieri, oppure è fissato a breve, insomma queste sono le indiscrezioni di Sky Sport 24, e quindi insomma, potrebbe significare che si va verso la più logica delle soluzioni, perlomeno quella che si immaginava in queste ore, ma anche già nei giorni precedenti. Simone ha chiamato la Novara, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Allora, innanzitutto volevo esprimere la contentezza per la vittoria di ieri, ovviamente, che non è assolutamente frutto del caso, perché sono 3 anni che la squadra di Tesser gioca in questo modo, dalla Lega Pro fino alla Serie A, e tra l'altro con 6/11 dei giocatori che c'erano ieri, che hanno giocato in Lega Pro, era nella formazione titolare del Novara in Lega Pro. Per quanto riguarda il campo invece, il campo del Novara è stato costruito in quel modo, cioè utilizzando un campo sintetico, perché una ragione strutturale, perché il campo del Novara in passato era soggetto a continui alluvioni, perché è una zona molto umida vicino alla Gogna, che è il fiume di Novara, quindi è stato necessario costruire un campo del genere ogni 2 anni. No, no, ma Simone, io non dico mica che sia stato un capriccio, che sia stato un trucco, non intendo questo. Io dico che dopo aver fatto ieri sera l'esperienza visiva, anche, cioè mi immagino dal vivo, ma l'esperienza anche soltanto televisiva, ma con un bello schermo come si devo, del campo del Novara, io sinceramente partite interne del Novara non so se ne guarderò ancora tante, perché non mi piace quel genere di non mi piace quel genere di calcio, ma non il calcio che gioca il Novara, mi capisca bene, non mi piace quel fondo, quella superficie, lo trovo innaturale per il pallone. Magnifico Casalin, scrive Antonella, ho percepito le sue parole ben oltre il calcio ed è stato illuminante. Grazie a lei Antonella per aver capito la sottigliezza, ma anche lo spessore di quel messaggio di Paolo Casalin, che è stato, oltre che un signor arbitro, ma è stato soprattutto un grande dirigente arbitrale, e avrebbe potuto e a parer mio dovuto essere un grande dirigente sportivo anche oltre la classe arbitrale, se questo paese non preferisse invece, e di gran lunga, e sappiamo bene perché, far fare carriera ai mediocri. Mauro da Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Io, stando in tema di arbitri, volevo appunto ricordare l'arbitro di ieri sera, mi pare fosse Bergonzi. Sì. Un applauso a Bergonzi, perché ha tirato fuori un cartellino giallo al più grande simulatore che abbiamo in Italia, cioè Lucio. C'è dubbio. E questo è un merito, un plauso a quest'arbitro. Poi restando anche in tema. Non era, le dirò Bergonzi, mi scusi, le dirò Mauro, non era difficile, perché buttarsi a quella maniera non è che puoi indurre in inganno l'arbitro, puoi soltanto appunto fargli tirare fuori il cartellino. Tanto era spudorato e maldestro il gesto, intendo dire. Fatto anche altre volte, è stato impunito, in questo caso. Sì, però adesso è meno in forma, no? E quindi gli riesce meno anche quello. Esatto. Stando in tema di difensori, passando un attimo alla difesa della Juventus, volevo dire a tutti quelli che reputano Giorgio Chiellini uno dei più grossi difensori italiani, secondo me dovrebbero mettersi degli occhiali, perché ci vedono poco. Ma questa è la mia considerazione. Ha detto grossi, forse lo reputano tale appunto in senso fisico e strutturale. Mauro, grazie, mi stavo dimenticando niente meno che di Nicola Filippone. Sentiamo questo 21 settembre. sembra ieri. 21 settembre 1958, prima giornata di campionato. Il Milan di Gipoviani parte bene, battendo 2-0 la Triestina, con doppietta di Carlo Galli. Tra i rossoneri debutta un giovane attaccante brasiliano, fresco campione del mondo. È José Altafini, detto Mazzola, per via della somiglianza con il capitano del Grande Torino. Nella prima delle sue 18 stagioni in Italia, Altafini si rivelerà subito un cannoniere implacabile, andando a segno 28 volte e contribuendo così in modo decisivo alla conquista del settimo scudetto milanista. Quindi il debutto di José Altafini nel 58, un altro grande debutto nell'86, sempre il 21 settembre, Bersellini, allenatore della Fiorentina, che quel giorno vinse 2-0 con la Sampdoria con due gol di Ramon Diaz, Bersellini quel 21 settembre fece esordire in Serie A Roberto Baggio. Benso ha chiamato la provincia di Viterbo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Perché volevo intervenire in merito al ragionamento prima di Casarini? Sì. Mi sembra quasi che loro dispiaccia non essere più protagonisti nelle polemiche. Contrario totale. Guardi che Casarini oggi fa il giornalista opinionista. Casarini ha 71 anni, anche perché è delle signore che non si può dire l'età, è completamente fuori dal mondo arbitrale, a torto, a parer mio, ma no a torto suo, a torto altrui, arbitrale o dirigenziale in genere nello sport italiano, e osserva, fa delle riflessioni, scrive, parla, ma non ha alcun... Quindi dire... cioè attribuire a lui uno stato d'animo, come dire, arbitrale, no, non ha senso, perché lui non c'entra. Però quando lui dice che non si fa tanta attenzione agli arbitri, eventualmente anche degli errori che abbiano fatto, cioè per esempio secondo me lui ieri sera dato contro l'Inter non c'era, era visibile, però era visibile, poi ne parliamo, ma comunque vabbè. Comunque mi sembra che non ci fosse, e comunque ci poteva essere una discussione. Gasperini, Moratti potevano un attimino attaccarsi a questa cosa, non lo hanno fatto. Ma cosa vuoi attacchi? Come? dopo un disastro come ieri sera, lei dice che qualcuno si poteva attaccare a un episodio del genere? Lei si è dimenticato di Mourinho forse. Ah beh certo, ma io sto parlando di Gasperini e quindi sto parlando di una persona per bene, poi può aver fatto un pochino di pianti l'altro giorno, ma... Vediamo di non paragonare Mourinho a Gasperini come livello di allenatori, ma vediamo anche di non farlo come persone, perché al contrario ovviamente, perché il rispetto umano mi sembra leggermente più importante del valore tecnico se parliamo di persone. Grazie Benso, grazie a Mauro De Angeli in regia, a Nicola Filippone per il Sembra Ieri, a Franco Piantanina in redazione, buon pomeriggio a tutti.